Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi il tema che sta tenendo banco da lunedì, e mi riferisco chiaramente a Generali, Mediobanca, Unicredit, è un tema più sottotraccia, nel senso che non ci sono grosse novità, se non, lo leggeremo più avanti, la dichiarazione anche di Palenzona, ossia del vicepresidente di Unicredit. Era a Palazzo Giustizia per testimoniare un processo. Alla domanda dei giornalisti ha detto, lo ha già ribadito il nostro amministratore delegato, che persona seria, noi non vendiamo la quota di Unicredit in Mediobanca. Unicredit è il primo azionista di Mediobanca. Si affievoliscono oggi le speculazioni, Generali più 0,70%, e poi sostanzialmente Intesa San Paolo meno 2,60%. Per quello che riguarda Unicredit, ieri oggetto di tanti acquisti, meno 1,12%. Ancora segnalo che invece oggi a far notizia è soprattutto ST Microelectronics, che guadagna l'8,86%, sono arrivati i conti, ne parleremo, mentre per quello che riguarda il resto del listino segnalo che oltre a Intesa San Paolo anche Mediobanca vede prevalere quelli che possono essere realizzi, visto che era cresciuto in questi giorni, meno 3%, poi il Banco BPM meno 4%, Leonardo ex Fimeccanica meno 2,60%, Yux Entaporté meno 2 come Poste Italiane e Unipol SAI. Immaginiamo sia una pausa, ma sicuramente approfittando di questa pausa del tema che ha occupato buona parte del programma in questi giorni, oggi di cosa parleremo, cosa ci riserva la giornata economico-finanziaria? Da un lato il rapporto 2017 sull'Italia del Centro Studi Eurispes, è un rapporto economico ma anche molto sociale, dove vengono individuate metà delle famiglie italiane come quelle che hanno problemi con i conti a fine mese, tra i problemi maggiori il mutuo, l'affitto della casa, le spese mediche, e poi per quello che riguarda le cosiddette ricette obbligate anticrisi, un giovane su 10 torna a casa dei genitori, il 13,8% in realtà, e poi un italiano su 4 si afferma perlomeno di sentirsi abbastanza o molto povero. E poi sempre più italiani che tagliano su spese mediche, il potere d'acquisto tiene ma si risparmia su pizzerie e parrucchiere. Questi sono i titoli che poi affronteremo nel corso dell'approfondimento. E poi sempre nel rapporto Eurispes il 48,8% degli italiani si dicono contrari all'ipotesi di uscire dall'Europa, i favorevoli sono il 21,5%, però c'è una fetta consistente, il 30%, che non sanno esprimersi in merito, preferiscono non farlo. Parleremo anche delle retribuzioni, perché è uscito il rapporto retribuzioni in Italia elaborato da ODM Consulting, che riguarda tutti, operai, impiegati, quadri e dirigenti. Do già il titolo: le retribuzioni degli operai sono cresciute dell'1,7%, quelle degli impiegati del 2%, quello dei quadri del 2,4%, quello dei dirigenti dell'1%. Va detto che questi dati sono praticamente netti, nel senso che non essendoci inflazione nell'anno che si è appena chiuso, non c'è, diciamo, da considerare l'effetto, da levare l'effetto inflazione, e anche di questo parleremo. Poi invece il fronte europeo, perché stasera c'è l'Eurogruppo, quindi ministri economico-finanziari dell'area euro, e domani il vertice dei ministri economico-finanziari di tutta l'Europa. Non è oggetto in maniera specifica la correzione chiesta al governo italiano, ma è ovvio che se ne discuterà. È lo 0,2% del PIL e quindi circa 3,4 miliardi di euro. Sul tavolo dell'Eurogruppo di questa sera la Grecia e appunto le varie missioni del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione per valutare e monitorare l'andamento post aiuti di Italia e Portogallo, di Irlanda e Portogallo, scusatemi. Però oggi il commissario agli affari economici per Moscovici, entrando nell'Eurogruppo, ha detto: dall'Italia ci aspettiamo una risposta precisa. Le nuove spese dovute al nuovo sisma Non entro nel negoziato perché l'Unione Europea è già vicina all'Italia, l'ho dimostrato e lo sarà sempre, ma non è oggetto della discussione in corso, anche perché la richiesta di correzione arriva intanto prima delle tragedie della settimana scorsa, ma soprattutto è al netto, diciamo, della flessibilità che l'Italia ha avuto sui conti per flussi migratori e terremoto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, dicevo delle borse, sì, mi fate notare che hanno dato gli indici: meno 0,70% Milano, meno 0,26% Parigi, più 0,24% Francoforte, Londra meno 0,16%, Dow Jones più 0,23%, euro su dollaro a quota 1,06%. Per quello che riguarda il petrolio, un po' che non lo diamo, è risalito oggi del 2%, è vicino ai $54 al barile, usiamo sempre il WTI, quindi il West Texas Index americano come riferimento, vicino ai $54 al barile. La multinazionale americana scusate la qualità della voce, la multinazionale americana Johnson & Johnson ha annunciato un accordo da $30 miliardi per rilevare la Svizzera Actelion, che è la maggiore società di biofarmaceutica in Europa. Ancora oggi continua la trampeide, le varie dichiarazioni del neopresidente americano Trump. Il libero commercio è un motore della crescita e della prosperità globale, così il Fondo Monetario Internazionale commenta il no del neopresidente Trump all'accordo di libero scambio, il TPP, quello dell'area sud-est asiatica. Trump oggi ha detto sostanzialmente, ha ordinato di costruire al confine con Messico il muro che costerà tra i 12 e i $15 miliardi, e lo ha confermato lo speaker della Camera Paul Ryan. Trump dice: se il Messico non è disposto a pagare per il muro di cui c'è un disperato bisogno, allora sarebbe meglio cancellare l'incontro previsto alla Casa Bianca con il presidente messicano Enrique Peña Nieto. Però Peña Nieto ha confermato il suo viaggio a Washington. Devo dire che è un po' interessante la posizione di Trump, cioè gli costruisce il muro ai messicani, vuole che se lo paghino pure, può anche chiedergli a questo punto che lo tengano pulito, lucidato e che lo rivernicino ciclicamente. Adesso non lo so, ma il muro serve, uno può anche dare ragione a Trump, non è questo in discussione, serve per limitare il flusso di immigranti irregolari, che non sono tutti messicani, anzi spesso sono dei paesi a sud del Messico, però cioè, chiedere che Messico partecipi alla costruzione di un muro per se stesso Allora, l'economia britannica, molti fanno notare in Gran Bretagna che la Gran Bretagna non ha ancora gli effetti della Brexit, positivi o negativi, perché ancora formalmente in tutto e per tutto nell'Unione Europea, e si attendono per i prossimi mesi un rallentamento, parlo degli economisti britannici, della crescita e un aumento dell'inflazione, perché la sterlina ha perso valore, che potrebbe ridurre il potere d'acquisto delle famiglie. Nel giorno in cui il PIL dell'economia britannica nel quarto trimestre del 2016 cresce dello 0,6% e quindi mantiene il tasso di crescita uguale al periodo precedente. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, a firma del vice direttore Alberto Rioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. A chi continua a chiedermi gli stipendi, ho dato il dato medio, di cui adesso discuteremo, della ricerca annuale di ODM Consulting sulle retribuzioni del settore privato. Mi rendo benissimo conto che molti di voi non si ritrovino nemmeno nell'aumento del 2%, ne parliamo tra 5 minuti dopo appunto i 100 secondi di Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Diciamo Diciamolo subito, forse aveva ragione il capo economista della Bank of England, Andrew Haldane, a denunciare che gli economisti in quest'ultima stagione non ne hanno azzeccata una, proprio come certi meteorologi che non sono stati in grado di prevedere le tempeste. Questa volta effettivamente era prevista tempesta sull'economia inglese causa Brexit e invece l'anno si è chiuso con il solleone. Il PIL è cresciuto dello 0,6% nell'ultimo trimestre del 2016, fatto che conferma una crescita annua del 2%, più dei paesi dell'Eurozona, anche se un po' meno dell'anno precedente quando il PIL inglese era salito del 2,2%. La crescita è legata alla forte espansione della domanda interna, con i consumatori per nulla preoccupati apparentemente del futuro e sempre più impegnati a spendere. Manifatture ed edilizia sono rimaste come erano, senza scosse, in moderato rilancio. Naturalmente il governo inglese legge questi dati per confermare ai britannici che Londra potrà vivere e prosperare anche fuori dall'Unione Europea, ma un conto è la propaganda e un conto sono i dati di realtà. Non a caso gli esperti avvertono che il peggio deve ancora venire, l'aumento dell'inflazione in seguito all'indebolimento della sterlina, fatto obiettivo dopo Brexit, inevitabilmente raffredderà la fiducia dei consumatori e rallenterà proprio quelle spese che ora trainano il PIL. Senza contare che i servizi, da sempre settore di punta della City, avranno un contraccolpo dall'uscita dalla UE. Non sono poche le grandi banche che stanno spostando asset e personali fuori dalla Gran Bretagna, in Francia ad esempio, ed è notizia di ieri che la Germania sta facendo una vera e propria campagna di marketing per attrarre imprese e società inglesi entro i propri confini. Lo vedremo nel medio periodo, a meno che i previsori siano ancora una volta come i meteorologi che non ne azzeccano una. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, veniamo all'Italia. Il BTP, mi chiedevano alcuni ascoltatori, ci stiamo arrivando. Il BTP italiano sale al 2,20% come rendimento, è il livello più alto dal luglio del 2015. Il rendimento del bono spagnolo viaggia all'1,57%. In sostanza, la differenza tra noi e l'equivalente tedesco è lo spread è a 170 punti, mentre gli spagnoli ancora sono a 108 punti, quindi stiamo stabilmente sopra la Spagna come spread. Non è preoccupante il livello dello spread, però non è un bel segnale che il mercato continui a apprezzare, a far pagare più noi che la Spagna come rischio sul debito. Allora, l'Italia oggi, il Centro Studi Confindustria, nel rapporto congiuntura flash, l'analisi mensile, il fotografo in Italia che prosegue ad avanzare lentamente in linea con le stime, più 0,3% il trascinamento sul 2017, cioè come siamo entrati nell'anno con un più 0,3%, però dice attenzione, resta l'incognita delle elezioni. Ancora il commercio, abbiamo oggi il dato delle vendite a dettaglio di novembre, negative su ottobre, ma per quello che riguarda invece l'anno prima, che era il caso più interessante, il tendenziale, c'è un aumento dello 0,8%. Calano le vendite di alimentari dell'1,2% in valore e dell'1,3% in volume, stabili invece i non alimentari, e questo ci porta diretti al rapporto Italia 2017 del Centro Studi Eurispes, e poi invece parleremo anche del rapporto di ODM Consulting sulle retribuzioni degli italiani, il 22esimo rapporto. Grazie quindi Alberto Mattiacci, direttore scientifico di Eurispes, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, senta, il vostro rapporto è molto articolato, come sempre un rapporto a cavallo tra economia e società, nel senso non solo le variabili economiche. E politica. Vado per sommi capi. Per metà delle famiglie i conti a fine mese non quadrano, solo in una casa su quattro si è in grado di mettere qualcosa da parte, e con le prime preoccupazioni, ossia rata del mutuo, e invece far fronte anche alle spese mediche per il 25,6%. Un italiano su quattro si sente povero tra perdita del posto o il divorzio, la separazione, pesano anche le malattie e addirittura la dipendenza dal gioco d'azzardo. Vediamo fotografato un'Italia in cui si tagliano sempre più spese, anche le spese mediche, e si risparmia da pizzerie e parrucchiere. E poi però dite, il potere d'acquisto tiene, ma si va a tagliare questo. Vorrei partire da qua, se il potere d'acquisto tiene, non è quasi in contraddizione con un taglio, per esempio, del parrucchiere piuttosto che della pizzeria? Perché la classe media è preoccupata oltre che in sofferenza. questo per risolverla con una battuta. Noi quella che fotografiamo alla fine è un fenomeno non nuovo e non unico, non precipuo dell'Italia, della sofferenza di una classe media che viene da lontano e che, diciamo, matura delle strategie di difesa, non di costruzione, non di proiezione verso il futuro. I dati che lei ha citato, da noi prodotti attraverso il sondaggio che facciamo ogni anno, sono dati che poi, se li guarda bene, hanno un fil rouge, che è quello di un comportamento, di un richiudersi su se stesso della società, e quindi della famiglia, che è il nucleo centrale di base, comunque intesa, ormai dobbiamo specificarlo, della società, e che si difende da che cosa? Da una realtà di fatto e dalle aspettative negative. E qui quindi c'è la componente di erosione del potere d'acquisto, ma c'è anche la componente difensiva, perché dice, anche se non ho avuto un'erosione vera e propria del mio potere d'acquisto, io intanto non spendo, lo traduco banale, ma per dare il titolo. Diciamo, non spendo, oppure spendo in modo diverso rispetto a prima, perché poi c'è un... io parlerei un fenomeno che secondo me un po', non voglio dire nuovo, ma che possiamo mettere in luce con più forza rispetto a prima, è il ricorso all'arbitraggio, cioè le famiglie italiane cominciano a diventare dei professionisti dell'arbitraggio. Arbitraggio significa differire delle spese nel tempo, e significa poi usare per esempio la rete e tutte le connessioni sociali che si hanno a disposizione per diciamo, cercare il miglior acquisto nello spazio. Il good value for money oggi viene cercato online, offline, attraverso passaparola, attraverso un ricorso che poi può aumentare e diminuire a seconda degli anni, ma un ricorso al mercato dell'usato, agli acquisti collettivi. Sono delle strategie intelligenti di un consumatore. Senta, è la neosobrietà di cui parliamo da anni, cioè che non è solo la neopovertà che purtroppo colpisce alcune classi sociali. La neosobrietà è quando tu, in realtà, a parità di potere d'acquisto, sei più sobrio, non sei più povero, e quindi il value for money, cioè il cercare il dare massimo importanza al valore aggiunto, non è solo la spesa in sé, ma è cosa spendo con quei 10 euro, cosa compro con quei 10 euro, con quei 100 euro, e non sono più disposto ad agire su fenomeni modali, quelli che i sociologi una volta chiamavano i bisogni indotti, devi comprare quel bene lì, no, vado sulla rete e vedo a parità di bene dov'è più conveniente. È questo che continua come fenomeno, al di là dell'erosione effettiva, nominale del potere d'acquisto? Ma sì, il fenomeno, io sono d'accordo con lei, ha fatto un'analisi molto intelligente, secondo me. La tendenza e la fotografia di lungo periodo, secondo me, è il riflusso dal consumismo. Noi siamo, diciamo, chi ha oggi la pancia del paese demografica, quella sopra i 50 anni, nell'intorno dei 50 anni, che è quella molto numerosa, no? Che si è formata mentalmente anche col consumismo, con la Milano da bere, adesso per dire un po' di slogan idioti, però oggi sta esattamente in marcia indietro, ma è già ingrassata, adesso si mette un po' a dieta, ma va anche in palestra. Siamo accorti che magari certi consumi erano veramente bisogni indotti e non voluti, cioè voglio dire il tasso di ricambio dell'automobile, il tasso di ricambio dell'abbigliamento, ci siamo accorti che possiamo vivere anche allungando questi periodi, o penso alle nuove generazioni, ma non solo, anche a quello che è successo al mondo della moda, nel senso che il valore aggiunto dell'elettronica da consumo viene premiato sempre, nella moda si va sull'acquisto online magari di marchi specializzati molto spesso in una fascia, diciamo, di basso costo del bene. Sì, guarda, io penso che ci sia, moda e auto siano due punti di riferimento, due azimut da seguire sempre. L'auto ci sta insegnando che si abbandona il concetto di proprietà a favore del possesso. La moda ci insegna che l'understatement e l'uso intelligente delle risorse è una cosa buona, che ti può dare uguale soddisfazione dell'ubriacatura di prima. Io poi mi lasci dire che sono sempre stato molto perplesso sul concetto di consumi indotti, perché mi sembra che dietro abbia un'idea un po' moralista, un po' da elite bacchettona, che uno è cretino. In realtà invece la cosa è che il nostro paese ha avuto una lunga sequenza di anni di un boom economico più o meno appalesato, perché non ci dimentichiamo che un terzo della nostra economia è sommersa almeno, certo. Quindi c'è una ricchezza reale che è ampiamente strabordante rispetto a quella statistica, e che solo a un certo punto, se ha 10 milioni, l'undicesimo milione per lei ha un'utilità marginale, basta, no? Per cui questo è un fatto. Ecco, poi c'è un po' lo spirito l'ultima cosa, poi c'è un po' lo spirito dei tempi, cioè alla fine anche tutti quanti più o meno sentiamo un'aria diversa, che questo richiama la sobrietà, poi noi ce l'abbiamo nelle corde, perché come diceva Gramsci siamo un paese profondamente contadino e cattolico nei valori, anche se non credente, ed sono tutti e due degli schemi valoriali dove insomma l'esibizione alla Donald Trump non alberga tanto, diciamo. Allora, no, voglio rispondere però a un ascoltatore, ma questa è la società che vi piace, povertà e restrizioni? No, guardi, stiamo ragionando proprio dell'opposto, nel senso che al netto della povertà e quindi della riduzione dei consumi obbligato da una crisi economica, perdi il lavoro, vai in cassa integrazione, e che quella si chiama neopovertà, e dove è un taglio di solito orizzontale di tutti i consumi, non è che ti stai a decidere cosa taglio e cosa no. Quello a cui si assiste ormai da anni è che questa sobrietà si applica anche a classi sociali che non hanno avuto il problema, diciamo, della cassa integrazione e della disoccupazione. Faccio un esempio: il pubblico impiego è vero che non ha avuto gli aumenti, ma non ha avuto neanche un licenziamento, eppure questa caduta di alcuni consumi la registri anche nelle aree dove è molto forte il pubblico impiego, penso alla capitale o ai grandi centri urbani. Quindi è un fenomeno culturale oltre che economico, questo sto dicendo. Non è solo il fatto che io guadagno meno e chiaramente taglio di una fetta equivalente la mia spesa. Qui non spendono anche classi medie, non è che tutti si sono impoveriti, che hanno lo stesso potere d'acquisto. A questo proposito, la tendenza che notate, Mattiaci, poi vengo ai giovani dopo il metro, la pubblicità, ma rispetto agli anni precedenti, perché questo va visto anche in prospettiva, non solo come nell'anno che si è appena chiuso. Pronto? No, questo sì, eccomi qua. No, la tendenza di una linea di continuità. Io vedo questo tema della sobrietà che va crescendo, nel senso che si amplia come consapevolezza di un atteggiamento sobrio a fasce sempre maggiori di popolazione. Perché una cosa è che uno ha un comportamento sobrio, poi a un certo punto si accorge che come si sta. Gli dicono: guarda, tu sei sobrio. E a quel punto, scattata la consapevolezza, diventa un sistema di consumo. Sì, certo. E questo sta crescendo molto, no? Mentre prima ma lo vediamo negli outlet, voglio dire, uno può andare in un outlet a spendere magari 3.000 euro di abbigliamento, la differenza non è che li spendevi anche prima, ma li spendi nell'outlet, gli stessi 3.000 euro non sei più disposto a spendere magari nel negozio sotto casa, perché ritieni che sia un lusso con il rincaro che può avere, invece ritieni che sia molto più sobrio spendere gli stessi 3.000 euro, quindi una cifra grossa, ma nell'outlet. Questo stiamo dicendo, e alcuni mi scrivono: ma sono quelli che comprano i telefonini da 800 euro e poi si lamentano se i figli sono disoccupati. Guardi che questo è un ragionamento che io non condivido, le spiego perché. Perché se la neosobrietà va sul valore aggiunto, allora lei mi prenda il mondo dell'auto, prenda un'auto, lo stesso modello di 10 anni fa e di adesso, e mi dice quali sono le grandissime modifiche, a parte un po' di design, di tecnologia, per carità, nell'auto. Prenda un telefonino di 10 anni fa e lo confronti con uno di adesso, sono due mondi diversi. Allora i giovani non sono stupidi, mi dispiace, ma non sono d'accordo con lei, vanno, perché la generazione che ha 18-20 anni è cresciuta con questa neosobrietà, ne aveva 10 quando è esplosa la crisi, vanno direttamente su dove c'è il valore aggiunto. Allora vogliamo fare un bel ragionamento: chi ha messo più valore aggiunto? L'industria dell'auto, che continua adesso ad avere problemi con le emissioni, sempre diesel, sempre benzina, che ancora aspettiamo il motore del futuro e quant'altro, o l'industria della telefonia, dove quello che prima era un telefonino che mandava un sms adesso è un computer che fa anche da telefono? A me sembra che i giovani abbiano veramente il bastone del rabdomante sulla neosobrietà. Siamo noi quarantenni, cinquantenni che forse dobbiamo un attimo riprendere le coordinate, cresciuti con i vari, diciamo, veterinari che giravano il paese, deodoranti che per l'uomo che non deve chiedere mai, appunto Milano da bere, quell'altra cosa che non ti piantava mai in asso, cioè tutto questo mondo che chi ha la mia età ricorda. Resti con noi, mentre ringrazio per averci aggiunto in collegamento e la saluterò fra un attimo anche l'amministratore legato di UDM Consulting. 349-238-6666 per sms e whatsapp, meteo, e poi torniamo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare del rapporto Eurispes e adesso degli stipendi degli italiani. Io spero che il ragionamento sulle tendenze culturali a consumo, cioè la neosobrietà, non è antitetico, cioè non va a sostituire la neopovertà che raccontiamo, e lo spiegava anche il rapporto Eurispes, gli italiani che hanno difficoltà e riducono le spese mediche, uno su quattro si sente povero, non è che si sente sobrio. E poi adesso arriveremo ai giovani che ritornano a casa dei genitori. Detto questo, se si vuole vedere tutta la fetta, bisogna anche ammettere che al di là di chi è entrato per colpa della crisi in un'effettiva neopovertà che non aveva prima, tutto il resto dei consumatori italiani, anche se non è da un punto di vista economico neopovero, perché non ha avuto una riduzione del potere d'acquisto o di tale significato, tutti noi ci muoviamo con una diversa ottica, molti di noi neosobria, no? Che i consumi sfrenati, ostentativi, come li chiamavano i sociologi, vengono detti da russi, con nessuna offesa per i russi, ma non sono più, diciamo, quelli a guidare. Questo stiamo dicendo. Poi certo, se uno mi scrive servo dei cinesi e degli arabi e della Confindustria, schiavo, non hai neanche il coraggio di leggere il mio sms, servo, se non ho lavoro i vestiti vado a prendermi alla Caritas senza stipendio, non ci sono neanche 9 euro per le magliette cinesi, ignorante come una bestia che siete, infami. Mi dica solo se sono, cioè, servo dei cinesi, degli arabi, della Confindustria, in che ordine? Cioè, prima i cinesi, gli arabi, la Confindustria, prima la Confindustria, i cinesi, gli arabi, prima la Confindustria, gli arabi, i cinesi, giusto per capire. E a chi mi dice, voi vedete fuori dalla realtà, la gente fatica a pagare l'affitto, altro che sobrietà, non sapete, non andate a fare la spesa. Senta, però, io la spesa la vado a fare tutte le volte che serve. Vado al supermercato, ci vado anche con mio figlio, devo comprare le cose per lui e per me. Ma perché c'è qualcuno che ha sempre l'idea che lui sa cos'è la vita reale? Io ho un supermercato normalissimo e cerco anche i prodotti che sono più convenienti, non è che siamo sempre, cioè, la vita normale la facciamo anche noi, non è che al supermercato ci va solo lei. Poi vorrei vedere quante volte lei va al supermercato e quante volte ci va sua moglie, questo sarebbe molto interessante. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti. Allora, veniamo ai giovani invece, Mattiacci, perché l'altro dato molto importante è che voi fotografate più di un ragazzo che torna a casa dai genitori. Qui non è un problema di neosobrietà, qui è un problema di potere d'acquisto, di stipendi ai giovani, a chi entra nel mercato del lavoro. Sì, soltanto una cosa a concludere il suo argomento. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la ricchezza delle famiglie non è fatta solo dai redditi. Per cui magari i redditi possono stare in sofferenza, ma esistono anche i patrimoni, esistono anche i trasferimenti, quindi possono esistere, diciamo, delle situazioni dove uno ha il reddito magari in sofferenza, però si ritrova a casa di nonna ereditata che affitta magari in nero, e quindi quelli fanno sempre parte, diciamo, delle fonti di finanziamento del consumo. Ciò detto, veniamo ai giovani. I giovani, come diceva un giornalista, non hanno ancora avuto il tempo di farci nulla, eppure già ce l'abbiamo con loro. Insomma, no? E questo è un paese che, dove sono venuti ormai a galla questi problemi, che hanno però una genesi antica. Non ce la dobbiamo prendere tanto, secondo me, con le classi dirigenti di oggi come quelle dell'altro ieri, manco di ieri. Ed è evidente che il giovane in sofferenza ritorna al nucleo centrale della famiglia, perché è la cellula di base della società. Lo Stato non offre protezione sociale e la famiglia si surroga allo Stato nell'offrire protezione sociale. E quindi questo è quello che succede, con tutte le conseguenze poi che vanno dalle sofferenze individuali, al calo delle natalità, al deficit di innovazione, a certi tipi di comportamento. Mi lasci dire, come una battuta, ho sentito stamattina la vostra radio dove da Minoli facevano le battute dice se vuoi avere successo in televisione sulla Rai devi rimetterci un programma vecchio, e ti credo, una società di vecchi è più affezionata alla Cuccarini che alla sperimentazione di nuovi personaggi. Sì, qui riguarda anche qual è il pubblico Rai, se non voglio parlare della concorrenza perché sarebbe scorretto, però insomma riguarda anche qual è il tuo pubblico di riferimento. Questo lo dico insomma, facendo radio, noi abbiamo i profili, sì, i profili degli ascoltatori, magari un pubblico un po' più di pensionati o diciamo, anziano, che interessa, lo dico per inciso, poco la pubblicità, perché la pubblicità è interessata quando tu hai un pubblico di quelli che chiamano spender, big spender, certo. Certo. E lo dico col massimo rispetto verso i pensionati, visto che lo sono anche i miei genitori, il pensionato non è così appetibile dalla pubblicità. Poi ci sono pensionati che guadagnano, e qua mi fate fare la battuta sui vitalizi che raccontiamo nella classifica, che guadagnano molto più di qualunque quadro dirigente, e quelli sono appetibilissimi. Nel ringraziarla, mi dica solo una cosa, farà anche titolo il fatto che il 18% degli italiani ha bussato in banca per finanziare festeggiamenti come un matrimonio, una comunione, no? Questo immagino che domani sarà ripreso. Quanti altri finanziamenti avete visto di cose che non dovrebbero essere finanziate dalla banca, tipo spese mediche e quant'altro? No, nel senso... I primi segnali ci sono, lo spazio, spazio di copertura da parte del credito al consumo, diciamo come si chiama, di spese obbligate si sta allargando. Le do un ultimo numero che fa il titolo e col quale la saluto, che noi abbiamo misurato che solo circa il 12%, poi vabbè, il numero statistico c'ha un intervallo di... Ma diciamo un decimo delle famiglie italiane degli intervistati dichiara di non conoscere nessuno che abbia peggiorato la propria situazione e che sia in stato di sofferenza. Cioè vuol dire che 9 intervistati su 10 nella loro cerchia sociale di riferimento conoscono almeno un nucleo familiare che sta in sofferenza. Questo conoscono almeno uno. Almeno uno. E questo è il campanello. Questo è il campanello. E siamo d'accordissimo. E lì poi potremo ragionare per intere puntate su quanto abbia sbagliato l'ex premier Renzi nel non capire nel 2015 come comunicazione politica che il paese non sentiva di aver svoltato, e quindi continuare a dire che avevamo svoltato solo perché c'era il segno più, ti faceva un effetto boomerang sulla comunicazione, perché uno dice ah sì, gli altri hanno svoltato, io no, allora io sono più sfigato di tutti e ti voto contro. Questo poi ha influito, oltre a altre cose, altre valutazioni sulle scelte fatte dall'ex governo Renzi di politica, ma anche la sensazione che si parlasse fuori dal contesto della vita reale percepita. Grazie anche Alberto Mattiacci. Adesso non oso pensare dove arrivano gli insulti, visto che il 22esimo rapporto, come ogni anno, retribuzione in Italia, elaborato come ogni anno da ODM Consulting, avete usato come base di riferimento 400.000 lavoratori nel settore privato. Dottoressa Simonetta Cavasin, amministratore delegato di ODM Consulting, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. 400.000 per lavoratori, partiamo dagli operai per andare fino ai dirigenti, e poi anche il famoso gap di genere, ossia la disparità a parità di inquadramento tra uomini e donne. Prego. Abbiamo... mi scusi, la interrompo un secondo perché ho il traffico, così le faccio fare il discorso in maniera più esaustiva dopo. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Allora, retribuzioni fotografate da 400.000 buste paga, settore privato stiamo parlando, operai, impiegati, quadri e dirigenti. Prego, dottoressa Cavasin. Grazie, buonasera a tutti. Spero di non farmi insultare. Lei troppo. Vada, tanto la insultano comunque. Andiamo al punto perché ho 8 minuti scarsi, prego. Dicendo che abbiamo registrato una tendenza all'aumento delle retribuzioni coerentemente a quello che è successo nell'ultimo, anche nel 2015. Per quanto riguarda gli operai, la crescita è stata dell'1,7% e parliamo di una retribuzione fissa di circa 25.900 euro. L'unica cosa, perché me lo chiedono gli ascoltatori, chiarisca sempre se è lordi netti, anche sugli aumenti. Allora, lordi netti. Parliamo sempre di lordo. Quindi voi individuate per la categoria operaia una retribuzione lorda media di 25.900 euro. Per gli impiegati saliamo a quasi 30.000 euro. per i quadri 54.000 euro e per i dirigenti 112.000 euro, a cui poi va aggiunto ovviamente le percentuali di bonus, di variabile. Mm-hmm. Quindi parliamo di una crescita su ordini di grandezza, l'avevamo sottolineato anche l'altra volta, comunque su ordine di grandezza che sono non così consistenti, se pensiamo che comunque un operaio, la retribuzione media di un operaio è di circa appunto quasi 26.000 euro. Lordi, assolutamente. Quindi questo è un punto di riflessione che si ricollega poi alla capacità di potere d'acquisto da parte delle persone e delle famiglie in generale. Il mercato, dal nostro osservatorio, comunque ci sta dicendo che pur lentamente le retribuzioni continuano comunque a crescere, sia nella logica della retribuzione fissa sia anche nella logica delle percentuali di retribuzione variabile, quindi è comunque un segnale tra virgolette positivo da questo punto di vista. A parità, a fronte di un'inflazione inesistente. Senta, possiamo ricordare anche come si erano mosse queste categorie negli anni passati, cioè se questo più 1,7% a fronte di una media retributiva bassa, lo dico, insomma, nessuno sta festeggiando i 26.000 euro lordi dell'operaio in media, anche perché essendo una media vuol dire che c'è qualcuno che ne prende 35.000, qualcuno che ne prende 18.000, e vale anche chiaramente per gli impiegati a 30.000 euro, i quadri a 54.000. Ecco, forse meno affidabile la parte sui dirigenti, perché sappiamo che lì caso per caso, ma la fetta variabile può essere bella alta, per cui dire 112.000 euro lordi magari è una fetta di variabile che è a 50-60.000. Ti dà solo una fotografia. Comunque, come si erano mosse le retribuzioni negli anni precedenti, dottoressa? Allora, negli anni precedenti, e quindi parliamo del trend 14-15, sono comunque cresciute in modo abbastanza coerente, quindi parliamo di percentuali che oscillano mediamente sul 2%, mentre negli anni appunto 2009, 2010, 2011 c'era stata una stagnazione assoluta delle retribuzioni, dove si era perso ulteriormente potere di acquisto. Quindi stiamo leggermente recuperando da questo punto di vista, ma non siamo sicuramente con i trend di crescita che erano precedenti alla grande crisi. Allora, mi scrive un ascoltatore, un operaio quarto livello 730 da 21.000 euro. Lo so, ho appena detto che questa è una media, evidentemente ci sarà qualche altro operaio in altre imprese che avrà avuto tra scatti e aumenti uno stipendio più alto, però ultimo aspetto, il gap di genere, e qui lo scarto resta tutto, cioè coinvolge anche i dirigenti e i quadri, a parità di inquadramento la donna prende meno. Sì, la donna mediamente prendono il 10% in meno rispetto appunto agli uomini. Questo è un tema, è un nervo scoperto, è un tema che alle volte nelle aziende non viene affrontato nella logica che non viene analizzato, quindi non vengono fatte analisi di questo tipo e quindi non è così evidente e continua comunque a essere un fortissimo punto di attenzione, soprattutto diciamo nella media impresa. Quindi l'invito è anche di analizzare questi dati all'interno delle aziende per rendersi conto di differenze che magari nella quotidianità non sono vissute e non sono viste, però continua ad essere un dato. Allora, critico. E qui nel salutarla devo contestare un ascoltatore che dice: ma fate un calcolo anche dei giorni di malattia delle donne. Allora, parliamoci proprio fuori dai denti. Se in questo paese non si è mai fatto un coefficiente per il reddito familiare, non si è mai fatta una politica per gli asili nelle imprese, non si dà la possibilità di scaricare come in Francia il bonus, avere un bonus per i primi anni o scaricare il costo della babysitter o della badante nel caso siamo dei genitori, è inutile che ci giriamo attorno. E se culturalmente in questo paese alle donne viene chiesto di lavorare ma anche di occuparsi dei figli quando stanno male, non mi faccia la domanda così pensando di essere furbo, perché l'ho capito benissimo dove va a parare. Lei vuol dire che le donne si ammalano di più. Vogliamo andare a vedere che tipo di assistenza, anzi che ruolo svolgono le donne, mamme, nei confronti della famiglia? Perché sa, ci mettiamo un attimo, se obblighiamo a dividere il 50% le volte che un bambino sta male, mandiamo una volta l'uomo, un'altra volta la donna, vedrà che il numero di giorni di malattia anche per i maschietti sono uguali. Allora, non mi faccia il discorso che le donne si ammalano di più. Sappiamo tutti che se il carico familiare è dato a te, o perché il reddito più basso e il marito ha il reddito più alto ed è quello su cui vi basate, o perché culturalmente se il bambino sta male lo va a prendere la mamma e non il papà, è ovvio che poi vedrai questo dato, ma è specioso. Cioè, lei prima sta al lavoro e manda la moglie a prendere il figlio malato e poi dice: guarda che sono sempre malate. Grazie dottoressa, andiamo sulla borsa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, meno 0,70% Milano in chiusura, meno 0,20 Parigi, meno 0,04 in variata Londra, Francoforte più 0,36%, i titoli Banco BPM meno 4%, Mediobanca meno 3,20, Yux Interporte meno 2,40 come Leonardo e Poste Italiane. Fortissima oggi Steam Microelectronics più 8,14%, dell'unico titolo di quelli a crescere in maniera significativa. Poi c'è Exor più 1,80, Fiat Chrysler più 1,20, poco mossa e tutta la galassia, chiamiamola così, Generali, quindi Generali e anche Mediobanca e anche Unicredit. Ne parliamo dopo il GR24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, occupiamoci adesso di borsa e partiamo anche dalla vicenda che sta tenendo banco dal lunedì, mi riferisco Generali, Mediobanca, Unicredit. Allora, oggi in borsa non ha tenuto banco invece, nel senso che segnalo la dichiarazione di Palenzona, vicepresidente di Unicredit, che dice, come già chiarito dal nostro amministratore delegato, non abbiamo alcuna intenzione di cedere la quota di Mediobanca. Unicredit è il primo azionista di Mediobanca, che a sua volta è il primo azionista delle Generali. Il Sole 24 Ore oggi segnala invece che ipotizza un'Intesa San Paolo che sta studiando un'offerta pubblica di scambio con Generali, quindi azioni su azioni senza sborso economico, e aggiungendo che l'operazione avrebbe avuto via libera dalla Compagnia San Paolo, primo socio di Intesa San Paolo. Ieri sera, come avete letto sui giornali, il Consiglio di Amministrazione di Generali ha ufficializzato l'uscita del gruppo del direttore generale Alberto Minali. Luigi Lubelli è stato nominato nuovo direttore finanziario. Minali ha preso 6 milioni di euro in tutto di buona uscita. E oggi in Consob saranno ascoltati i rappresentanti di Generali e Unicredit, perché continuano le audizioni della Consob in merito alla vicenda. Da quello che leggiamo e capiamo, anche il Ministro dell'Economia, il Ministero dell'Economia si è mosso con i protagonisti della vicenda. In borsa invece i titoli sono rimasti per la prima volta da lunedì abbastanza fermi. Generali più 0,40%, per quello che riguarda il titolo invece Intesa San Paolo ha perso il 2,17%, è quello che più si è mosso oggi assieme a Mediobanca, meno 3,20%, la Mediobanca era salita in questi giorni, Unicredit meno 0,50%. Tiene banco invece in borsa ST Microelectronics, e qui andiamo sulle notizie. invece i conti migliori delle attese li commentiamo con Eleonora Micheli, Radio Corri Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Prego. Sì, infatti ST sin dalle prime battute di questa mattina è andata bene, anzi a dirla tutta anche ieri già nell'attesa che i conti fossero buoni era stata gettonata, poi ha chiuso con la miglior performance del FTSE MIB, non solo per i conti che sono risultati sopra le attese con ricavi che nel quarto trimestre hanno registrato un progresso su base annua dell'11,5% attestandosi a 1,86 miliardi di euro, ma soprattutto per le indicazioni date dall'amministratore delegato Carlo Bozzotti, che ha detto che lo slancio che l'azienda ha preso negli ultimi mesi del 2016 dovrebbe continuare anche a inizio 2017, quindi ha dato buone prospettive su cui evidentemente crede il mercato. Del resto, come hanno notato alcuni analisti, chissà che ST, siccome è il primo, uno dei tanti fornitori di Apple, non benefici di un nuovo successo della Apple che sta per lanciare l'iPhone 8. Eh sì, e invece sul fronte opposto, poi parliamo di Fiat, c'è un approfondimento apposito, sul fronte opposto di nuovo continua a calare Hugh Santa Porte, meno 2,40%. Eh sì, è da ieri che il titolo va male, ricordiamo che ieri era uscito questo report di Exxon BNP Paribas, tu non ami parlare di report ma era molto interessante perché metteva in evidenza che la società potesse soffrire della concorrenza che è sempre più sfrenata nel mondo internet e soprattutto nel mondo delle vendite online di oggetti di lusso, infatti c'è quest'altra società nata nel 2008 che procede a passo di carica, cresce del 60% l'anno, Farftech, che dovrebbe diventare a breve, nel giro di pochi mesi, una minaccia consistente per Hughes & Taporté, che invece batte più in ritirata, secondo almeno gli analisti di Exxon BNP Paribas. Leonardo, ex Finmeccanica, meno 2,40%. Sì, in questo caso è la delusione per il mancato accordo che la società ha registrato in America, si sperava infatti che l'azienda potesse chiudere un contratto molto importante, non è stato così, anzi è stato annunciato il mancato accordo con un'azienda americana e dunque i titoli sin dalle prime battute di questa mattina hanno pagato dazi e sono andati male. Ancora per quello che riguarda altri titoli segnalo Leonardo meno 2,40 ma soprattutto Poste Italiane meno 2,30, Unipolsai meno 2,30, Snam meno 2%, Finecobank meno 1,80% e Unipo meno 1,70 e poi Biper meno 1,50 come Telecom e Terna, migliori e peggiori in assoluto, Gambro Rosso più 22%, Visibile Editore più 21%, Isagro più 18, Sintesi più 13, Leone Film Group più 10,40%, fronte opposto CHL meno 11, Zucchi però sulle risparmie non convertibili, vabbè, meno 10%, Safebag meno 8%, Innovatech meno 8% anch'essa. Grazie Eleonora Micheli, noi restiamo però sui temi di borsa perché oggi sono usciti i dati Fiat, i titoli prima di tutto, Fiat Chrysler in borsa ha fatto più 1,20%, Exor la controllante più 1,80%, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, indebitamento 2016 in calo a 4,6 miliardi, utile netto adjusted sale del 47% a 2 miliardi e mezzo di euro. Marchionne dice che spera di un rapido confronto con l'autorità ambientale americana, che ha accusato la Fiat di aver violato le norme sulle emissioni dei motori diesel. Il piano industriale 2014-2018 è completo al 60%, 2016 anno record e poi realizzeremo gli obiettivi. Oltre 4 milioni e 700 mila auto consegnate, confermata la leadership in Brasile, quota stabile negli Stati Uniti. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, ma, insomma, visti così i dati sono tutti positivi, c'è stato anche un accenno da parte di Marchionne a Trump, che insomma tiene banco più Trump che le immatricolazioni nel settore auto in questo momento negli Stati Uniti. Sì, diciamo che sulle prospettive future sicuramente, da un lato c'è l'effetto positivo sulla congiuntura, ricordiamo che l'anno scorso, ricordiamo una cosa, che Fiat Chrysler continua a guadagnare circa l'80-90% dei profitti sul mercato americano. L'anno scorso ne ha fatto poco più di 5 miliardi di euro sui 6 totali, quindi è fondamentale. L'arrivo di Trump ha dato una prospettiva positiva dal punto di vista congiunturale. Il mercato americano come vendite di auto è stato ai massimi nel 2016, si pensava prima delle elezioni di Trump a una graduale riduzione. La tesi adesso è che il sostegno di Trump possa aiutare il mercato quantomeno a mantenersi per qualche anno vicino ai massimi. Quindi l'effetto primo è positivo. Il secondo ovviamente è la politica dichiarata da Trump: da un lato aiutiamo le case a investire, dall'altro però bastoniamo chi va a produrre in Messico, cioè tutti. C'è stato l'incontro, sappiamo, questa settimana, tutti sono usciti molto contenti, si sono detti favorevoli alla politica del governo, però Marchionne oggi ha detto: noi potremmo spostare qualche produzione dal Messico agli Stati Uniti, abbiamo già predisposto per esempio un impianto per produrre dei pick-up che attualmente facciamo in Messico. Di qui all'aprire stabilimenti nuovi ce ne corre, nel senso che da un lato ci vogliono degli incentivi concreti, bisogna vedere cosa ci verrà dato come incentivi, dall'altro attenzione, perché se il mercato è sui massimi e comunque prima o poi un po' scenderà, come nella natura delle cose, la cosa peggiore per un produttore di auto è fare un investimento adesso e vederlo entrare in funzione quando il mercato è in calo. Quindi tutti, non solo Fiat Chrysler, staranno molto attenti a quando e come investire. E tra l'altro vedo che oggi la Ford ha registrato invece una perdita netta di 800 milioni nel quarto trimestre del 2016. Per inciso, visto che abbiamo appena dato notizia nel GR24 che è stata annullata la visita del presidente messicano alla Casa Bianca dopo che Trump ha detto che il Messico deve partecipare alla spesa per la costruzione del muro, noi come battuta abbiamo detto: beh, manca solo che gli chieda di tenerlo pulito e rimbiancarlo ogni tanto, insomma è un muro contro il Messico. È un ascoltatore mi ha detto: vabbè, la prossima richiesta di Trump sarà di chiedere ai tacchini che saltino direttamente nel forno il giorno del ringraziamento. Era immaginabile che il Messico avrebbe risposto così. Tu facevi notare in un articolo di ieri del Sole 24 Ore che in realtà i vantaggi del Messico, giusto per inciso, non sono solo sui costi. No, in realtà ci sono due vantaggi grossi che non sono di costo. Uno è la salutazione del peso, che è stata significativa negli ultimi 15 anni, circa 40% rispetto al dollaro, e tra l'altro in queste ultime settimane, con tutto il chiasso fatto da Trump, il peso è sceso ancora di più e ha reso la produzione in Messico ancora più conveniente, paradossalmente. L'altro punto è che può essere sempre messo in contrasto con le politiche di Trump: il vantaggio del Messico finora è stato anche quello di avere degli accordi commerciali con molti più stati di quanti non ne abbia gli Stati Uniti. L'esempio principale è l'Europa. Il Messico esporta le sue auto verso l'Europa a tariffa zero, mentre quelle americane pagano il 10% di dazio. Lo stesso varrà in futuro anche per i paesi del Pacifico. Il Messico ha aderito al TTP, che invece Trump ha denunciato e cancellato immediatamente. Questo cosa vuol dire? Il Messico sicuramente rischia di pagare moltissimo la politica di Trump, però è anche in grado di, come dire, trascinare in parte nei suoi problemi gli Stati Uniti, se effettivamente Trump dovesse andare dritto nella sua politica. Perché tra l'altro, per esempio, c'è un interscambio di componenti enorme solo nel settore auto tra i due paesi. Quindi un aumento delle tariffe farebbe aumentare molto anche il prezzo, il costo, quindi il prezzo delle auto vendute negli Stati Uniti e prodotte negli Stati Uniti. Quindi tra l'altro l'effetto finale sui consumatori americani potrebbe essere fortemente negativo e potrebbe quindi innescare una caduta del mercato americano più rapida. Per ora, anche parlando con le numerosissime aziende italiane che producono in Messico, alcune producono anche negli Stati Uniti, l'atteggiamento è: aspettiamo a vedere. Sicuramente alcune delle misure promesse di alleggerimento della burocrazia, incentivi, sono positive. Noi comunque facciamo investimenti per il lungo periodo, quindi dobbiamo ragionare sul lungo periodo e non sui cicli elettorali americani. Vedremo come cambierà la convenienza relativa appunto nel lungo periodo. Grazie anche ad Andrea Malan. Andiamo sul traffico, poi l'ultimo punto, mi riferisco al vertice Eurogruppo di questa sera, dove formalmente si parlerà di Grecia e anche si farà un monitoraggio su Irlanda e Portogallo, ma in realtà a tener banco sarà con ogni probabilità, anche se non a livello formale, ufficiale, la manovra correttiva chiesta da Bruxelles all'Italia e l'atteggiamento che l'Italia vorrà tenere. Su questo c'è già una dichiarazioni di Moscovici all'ingresso dell'Eurogruppo, ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Abbiamo scritto una lettera assieme a Dombrovskis a Piercarlo Padoan, lettera estremamente precisa e quindi ci attendiamo una risposta precisa. Siamo in un processo di dialogo. Ho incontrato Padoan a Davos e abbiamo avuto scambi positivi. Detto questo, c'è la lettera e ci sono le cifre. Spero che le risposte arrivino nei tempi dovuti e con la volontà comune di arrivare a una soluzione. Non c'è nulla di nuovo, sono le stesse cose dette a novembre. L'Italia è il paese che ha più beneficiato di flessibilità per le riforme strutturali, per gli investimenti e anche per l'accoglienza dei rifugiati, perché è un paese in prima linea, e per i terremoti che hanno colpito il paese. È chiaro che nella nuova catastrofe che ha investito l'Italia e nelle spese per i terremoti che sono già integrate nella discussione, ci sono degli elementi una tantum e ci sono degli elementi strutturali, ad esempio per il miglioramento della prevenzione. Su questo non c'è niente di nuovo. La Commissione ha già mostrato che è e sarà al fianco dell'Italia. Non è in discussione. Siamo pronti a esaminare questi aspetti, ma è su altro che attendiamo la risposta. La risposta della Commissione europea arriverà in tempo, in base alla richiesta della Commissione europea. Sappiamo bene che le spese sui migranti, come le spese sul terremoto, già nella legge di bilancio hanno un trattamento particolare e continuerà a esserci. Allora, abbiamo ascoltato in sequenza prima le dichiarazioni del commissario europeo Moscovici agli affari economico monetari entrando all'Eurogruppo che appunto è iniziato e poi il nostro ministro Padoan. Il tema è sempre quello della richiesta di un aggiustamento da 3 miliardi e 400 milioni sulla manovra finanziaria, sulla legge di stabilità, lo 0,2% del deficit, e Moscovici ha chiarito che è al netto di qualunque spesa emergenziale, quindi anche la nuova tragedia del terremoto, l'impatto sulle finanze pubbliche sarebbe superiore al miliardo. Da questo punto di vista la portavoce Commissione degli Affari Economico-Finanziari Annika Breithard ha detto: abbiamo ricevuto una lettera dal primo ministro Gentiloni, non abbiamo commenti sui suoi contenuti, non è ancora stata inviata la nostra risposta. La lettera del Presidente del Consiglio Gentiloni è relativa all'impatto sulle finanze pubbliche del nuovo terremoto. Però Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, tu oggi scrivi al netto, diciamo, visto che hanno chiarito che non c'entrano né i flussi migratori né il terremoto. Sì. L'aggiustamento tecnico è fattibile, cioè si potrebbe arrivare a portare questo deficit dello 0,2 in meno, però il tema resta politico. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è tanto correggere lo 0,2% il deficit previsto, ma è dar ragione all'Europa in maniera troppo supina? Ci sono spinte contrapposte in questo momento all'interno del governo. Da un lato c'è la necessità comunque di provare a non contraddire troppo quello che è stato fatto dal precedente governo, visto che il governo Gentiloni ne è la diretta emanazione e quindi in continuità. E dall'altro c'è la preoccupazione di non dare adito a quanti direbbero immediatamente dall'opposizione, e credo anche non solo, che questo è un cedimento alla linea rigorista e che invece valga la pena di tornare ai pugni sul tavolo del renzismo. Quindi ci sono queste due variabili. Ecco, vorrei unire questo alla sentenza della Consulta, nel senso che adesso che si entra, non so se per giugno, non so se per settembre, ma si entra in una campagna elettorale, perché insomma è difficile se non impossibile che si arrivi alla scadenza nel 2018 della legislatura, quanto peserà ancora di più? Perché se tu dici che l'aspetto è principalmente politico, tra l'altro se ci chiarisci anche perché non è tecnico ma è politico, Beh, io ne deduco che sarà ancora più pesante se si dovrà andare poi in campagna elettorale e i partiti, alcuni partiti diranno questa Europa che fa schifo, e tu non puoi come governo presentarti supino all'Europa, mettiamola così. Ma dal punto di vista tecnico l'operazione viene ritenuta, almeno dal Ministero dell'Economia, fattibile. Stiamo parlando di 3 miliardi e 4, non si dispera peraltro di attivare questo processo che poi in sostanza chiamiamola com'è, cioè una sorta di manovra correttiva, ma in tempi anche diluiti, cioè una prima tranche fatta con misure, diciamo, di manutenzione amministrativa da 1 miliardo, 1,2 miliardi, il resto da fare insieme con, annunciandolo col prossimo DEF di aprile, e poi di fare una specie di anticipo della manovra del 2018. Quindi tecnicamente al Ministero dell'Economia sono pronti e l'effetto, l'impatto potrebbe anche essere limitato, cioè non sarà una correzione fatta a suon di aumenti di imposte o di tagli draconiani, anche perché l'importo obiettivamente su 825 miliardi di spesa pubblica, di bilancio pubblico, forse si possono pure individuare. Il punto di fondo è che qui si gioca una partita politica, perché la stessa Commissione europea, e abbiamo sentito Moscovici, per la prima volta il tono di Moscovici è ultimativo, cioè non ci sono margini di trattativa, i 3,4 miliardi l'Italia li deve fare. E questo perché? Perché in questo momento storico la Commissione europea, con le elezioni tedesche alle porte, non può del tutto, però evidentemente è un'altra storia rispetto al 2016, non può far vedere che continua a essere, tra virgolette, eccessivamente accondiscendente nei confronti di un paese che comunque continua a avere il debito pubblico che ha. Quindi la partita è proprio da questo punto di vista tutta politica. Ma l'interrogativo è: vale la pena di aprire un contenzioso con l'Europa per 3 miliardi che poi determinerebbe l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo? Di per sé non è un dramma, perché la Francia è in deficit, però per noi cosa comporterebbe? Però la risposta è politica, Dino, nel senso che chiaramente, perché tu ricordi che la Francia ha un deficit ampiamente superiore a quanto chiesto da Bruxelles e se ne frega, tra virgolette. Noi oggi abbiamo visto lo spread risalire a livelli più alti del maggio 2015, però è ovvio che se te la giochi, così la capisco io perlomeno, in chiave politica, dici: guardate, noi difendiamo gli interessi dell'Italia, l'Europa che ci vuole strangolare, no? Può essere che il risultato politico sia più del risultato, diciamo, economico, cioè che ben venga un richiamo e un'apertura di infrazione se poi politicamente ti porta consenso o no, in una battuta. È vero, infatti ci sono diverse valutazioni che stanno facendo in questo momento tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia. Dall'economia ovviamente c'è una preoccupazione, attenzione agli effetti possibili, perché appunto tu citavi giustamente lo spread, sai, il problema è che noi camminiamo su un vulcano, perché nel momento in cui poi abbiamo di nuovo un problema di credibilità sui mercati, perché siamo in procedura, aumenta la spesa per interessi. E allora sì, bisogna capire se l'aumento di interessi è più alto di quanto ti costerebbero questi 3 miliardi. Esattamente, questo è un altro aspetto. Esattamente. O magari uno può fare la faccia feroce, come dicono a Napoli, e poi in realtà sotto banco trattare e arrivare a un accordo. Grazie intanto a Dino Pesole, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24 libera la voglia di fare.